Mezzanotte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Si occupino delle cose concrete, mettano a posto le loro città, sistemino la sanità della loro regione, come nel caso della Sicilia. E finalmente si smetta tutti i giorni di guardare strani e complicati giochi politici. Se sono in grado di governare, governi. Se no, che vadano a casa. A chi si riferiva, quiz per le ascoltatrici e ascoltatori, Renzi in questa dichiarazione così netta, così drastica? Ve lo dico subito io, perché in realtà poi abbiamo tante altre cose di cui parlare. Sono Marino e Crocetta, diciamo, sono due vicende che hanno appesantito non poco e imbarazzato il PD. Però Crocetta l'abbiamo avuto qui effetto notte, ha detto le sue ragioni. Questa sera invece sentiremo anche la controparte, sentiremo un giornalista dell'Espresso per chiedere, allora... Finora le cose sono state così, i procuratori di Palermo e Caltanissetta hanno smentito che ci siano queste intercettazioni, ma l'Espresso replica che invece è in possesso di queste intercettazioni, di queste telefonate, quindi stasera sentiremo l'altra parte. Poi dovremo scoprire se è vero, quindi non perdete un solo attimo di Effetto Notte questa sera, come immagino tutte le puntate di Effetto Notte, ma dovremo scoprire due cose: se effettivamente, come girava la voce, diciamo piuttosto inquietante oggi, ci sia una tassa, a proposito di fisco, una tassa anche sui condizionatori, e poi è vero che la NASA ha scoperto un'altra terra, siete pronti con le valigie, si potrà abitare, che condizioni ci saranno? Abbiamo un sacco di argomenti questa sera e parleremo anche naturalmente della questione dell'Ilva, perché sapete che ci sono stati quasi una cinquantina di rinvii a giudizio. Insomma, ora vi racconto brevemente la giornata, ma vi chiedo anche questa cosa stasera come spunto per le vostre riflessioni, sia sulla pagina Facebook di Effetto Notte, sia ai messaggi 349-238-6666, lo ripeto, il numero è 349-238-6666 per gli sms. Allora, secondo un sondaggio del Centro di Ricerca Americana Pew Research, l'Italia è tra i paesi più pessimisti tra le economie avanzate insieme a Francia e Spagna, cioè quasi 9 persone su 10 in Italia, quasi la totalità, sono convinte che l'economia vada male. Voi siete pessimisti o ottimisti? Siete tra queste 9 persone che pensano che l'economia vada male in Italia, oppure avete, diciamo, qualche barlume di speranza e di ottimismo? Pagina Facebook di Effetto Notte, numero di messaggi 349-238-6666. Io intanto vi racconto la giornata. Immigrazione: decine di migranti sarebbero annegati in seguito al naufragio di un gommone avvenuto ieri mattina davanti alle coste libiche. La notizia si è avuta ora, lo hanno riferito i superstiti. Spazio: l'annuncio della NASA, scoperta un'altra terra con un proprio sole in una zona abitabile del cosmo. Ilva, il via a ottobre il processo per il disastro ambientale, 44 persone a processo, c'è anche l'ex presidente della regione Puglia, Vendola. Gli italiani rapiti in Libia, non ci sono scafisti dietro il sequestro, ma le richieste di soldi, lo ha detto il sottosegretario con delega ai servizi Marco Minniti. Divorzio in Forza Italia, Verdini dice a Berlusconi me ne vado, e rottura e crea un nuovo gruppo. La bufera politica in Sicilia, Crocetta non molla e dice contro di me poteri occulti. Stasera Effetto Notte, vi dicevo, il caporedattore centrale dell'Espresso. Occupazione: Telecom Italia annuncia 1700 esuberi e domani scioperano i piloti all'Italia, fermi il 15% dei voli. Unioni Civili: secondo il Ministero dell'Economia gli oneri complessivi recati dal disegno di legge Cirinnà per le finanze pubbliche vanno dai 3,7 milioni del 2016 ai 22 milioni nel 2025 tra detrazioni, assegni familiari e pensioni. Partiamo quindi da questa nuova tragedia che riguarda l'immigrazione, di cui si è saputa notizia in tarda serata in realtà, anche se è avvenuta ieri. Alcune decine di migranti, una quarantina secondo la testimonianza dei superstiti, sarebbero annegate in seguito al naufragio di un gommone avvenuto ieri mattina davanti alle coste libiche, lo hanno riferito appunto alcuni dei sopravvissuti che sono sbarcati oggi pomeriggio ad Augusta in Sicilia dalla nave militare tedesca Holstein, che ha soccorso complessivamente 283 profughi. E poi questa notizia che riguarda lo spazio: l'annuncio della NASA, scoperta un'altra terra con un proprio sole in una zona abitabile del cosmo, è lontana 1400 anni luce, poi cercheremo di capire più o meno come possiamo immaginare questa distanza, e gli scienziati la definiscono un vecchio cugino della Terra, si chiama Kepler 425b, poi ne parleremo con un noto scienziato e divulgatore che è Giovanni Bignami, capiremo se effettivamente possiamo preparare i bagagli, avere un'alternativa insomma. Non c'è per il momento alternativa a questo processo che riguarda invece l'Ilva, visto che parte a ottobre per disastro ambientale, questo processo per cui sono state rinviate a giudizio 44 persone, e c'è anche l'ex presidente della regione Puglia, Vendola. sarà il maxi processo in difesa dell'ambiente, il giudizio all'acciaieria più grande di Europa e a tutto un sistema accusato di aver permesso ai 256 camini dell'Ilva di inquinare Taranto. Due anni dopo l'inizio dell'aspra battaglia giudiziaria, ecco che il GUP Vilma Gilli rinvia a giudizio 44 persone e 3 società per disastro ambientale. Dal 20 ottobre a processo ci sarà la famiglia Riva, dominus dell'azienda, l'ex presidente Bruno Ferrante, ma anche l'ex governatore della Puglia Nichi Vendola, accusato di concussione aggravata. Avrebbe fatto pressioni sull'Agenzia per l'Ambiente perché ammorbidisse la propria posizione sull'Ilva, consentendole, secondo gli inquirenti, di diffondere veleni attraverso quella polvere rossa che copre soprattutto il quartiere Tamburi, da cui proviene la maggior parte delle 1000 parti civili. Ho la coscienza pulita, si difende il leader di Sella. Rappresento la politica che non è stata sul libro paga dei Riva. Nella città, dove anche i cimiteri chiudono per inquinamento, ora a processo va pure il sindaco Stefano, mentre è stato condannato in rito abbreviato l'ex segretario dell'arcivescovo e l'ex consulente della procura. Il rinvio a giudizio, esultano i Verdi, è importante per tutto il popolo inquinato. Raffaella Calandra, Radio 24, Sole 24 Ore. Restiamo sulle questioni politiche, perché non solo Vendola c'è a difendersi, è stato anche il giorno oggi di Crocetta all'Assemblea siciliana. Rosario Crocetta non molla, non mi dimetto, dice il governatore della Sicilia intervenendo davanti all'Assemblea regionale dopo la bufera nata dalla presunta intercettazione pubblicata dall'Espresso di una conversazione telefonica nella quale il suo medico personale Matteo Tutino avrebbe utilizzato parole pesanti contro Lucia Borsellino. Quell'intercettazione non esiste, un falso scoop non può decidere le sorti dei governi, spiega Crocetta, convinto che dietro gli attacchi contro di lui ci siano mafie e massoneria, poteri occulti che minacciano la democrazia. La deriva populista e demagogica che c'è dietro alcune prese di distanza e la rapida richiesta di alcuni di andare a voto per me è irricevibile perché strumentale e interessata. Lo sciacallaggio non posso che respingerlo. Per tutelare non solo me stesso, ma tutti voi, tutti noi. Sulla presunta intercettazione, il ministro della giustizia Orlando intanto fa sapere di aver avviato verifiche preliminari, come avviene ogni volta che c'è una diffusione impropria di informazioni processuali, ha spiegato il guardasigilli. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Poi, come vi dicevo, torneremo a parlarne con un giornalista dell'Espresso. Sul fronte invece dei partiti, il divorzio in Forza Italia, posizioni troppo lontane, me ne vado, ad annunciarlo è stato Denis Verdini. Addio quindi a Berlusconi e probabilmente, dice, ho i numeri per creare un nuovo gruppo che potrebbe cambiare gli equilibri. Sulle unioni civili, secondo la relazione del MEF, tra detrazioni, assegni familiari, pensioni, nel 2016 si spenderanno 3,7 milioni, sono gli oneri complessivi recati dal disegno di legge Cirinna sulle unioni civili per le finanze pubbliche. Sentiamo ieri che cosa aveva anticipato qui a Effetto Notte il sottosegretario Ivan Scalfarotto a proposito proprio di questo tema. Quando c'è una legge di spesa bisogna appunto che il governo certifichi quanto costa e se ci sono le coperture. In realtà, che mi risulti, la relazione tecnica è stata approntata e che io sappia deve essere anche stata consegnata e se non è successo siamo lì. Quello che sappiamo di sicuro è che l'INPS, dato che i costi sono, si riferiscono in particolare alle pensioni di reversibilità, hanno già l'INPS ha già sostanzialmente certificato, e quindi la relazione tecnica si baserà largamente su quello, che si tratta di costi abbastanza risibili. Siamo addirittura sotto il milione di euro diciamo per il primo anno, e a regime, quando, diciamo, nei vent'anni successivi, arriviamo a una cifra massima di 5-6 milioni di euro. E adesso gli italiani rapiti in Libia, non è da considerare la pista degli scafisti per il rapimento degli italiani, quella principale, anzi per la prima volta il governo italiano oggi si sbilancia, il sottosegretario con delega ai servizi Marco Minniti in un'audizione al COPASIR, al Comitato Parlamentare per la Sicurezza, dice si tratta dell'iniziativa di una banda di soggetti non legati al terrorismo che probabilmente cercano di monetizzare questa azione, nel senso chiederanno quindi dei soldi. Occupazione per quanto riguarda l'Italia, ci sono esuberi segnalati da Telecom. Italia ha annunciato un piano fino a 1700 posti di lavoro da tagliare, ha detto oggi nell'incontro oggi al Ministero dello Sviluppo Economico con i sindacati. Telecom bloccato anche il progetto di assunzione di 4000 giovani, colpito dai tagli soprattutto il settore dei servizi call center. E poi sempre una questione legata all'occupazione, lo sciopero con voli a rischio dalla mezzanotte di adesso, quando finisce effetto notte, insomma, per lo sciopero dei piloti assistenti di volo del gruppo Alitalia per 24 ore, quindi dalla mezzanotte. La protesta è per preoccupazioni sul fronte occupazione per il disimpegno del gruppo Alitalia dall'attività di medio raggio a favore della compagnia Etihad Regional. Sentiamo allora Vito Riggio dell'ENAC al microfono di Enza Loddo. Si tratta di uno sciopero assolutamente incomprensibile, nonostante io capisca le buone ragioni di chi lo ha proclamato. Incomprensibile perché cade in un momento di grandissimo traffico e dopo che abbiamo affrontato e risolto con grande fatica la questione di Fiumicino. Mi auguro che prevalga il senso di responsabilità che ha sempre connotato i piloti italiani e spero che i disagi dei passeggeri in questo momento così difficile siano limitati. Sono stati cancellati già il 15% dei voli previsti per la giornata di domani, quale sarà la situazione? Guardi, il problema è, come tutti sappiamo, che i voli per fortuna sono pieni, il che vuol dire che se un volo viene cancellato è difficile riproteggerlo sul volo successivo, quindi qualcuno perderà delle giornate di vacanza e questo mi pare criminale in un momento in cui finalmente la gente ha un po' di respiro. Per quanto riguarda le notizie dall'estero, parleremo poi di Grecia, perché il Parlamento ha votato questa notte il secondo pacchetto di misure, e la notizia è che anche l'ex ministro delle Finanze, quello che si è dimesso, Varoufakis, ha votato sì, poi capiremo perché. Tornando in Italia invece la cronaca, un lungo applauso c'è stato ai funerali nel Pesarese del 17enne ucciso per gelosia. Sentite, ci sono stati oggi i funerali per Ismaele, centinaia di persone erano presenti per l'ultimo saluto, mentre alla famiglia è arrivata la richiesta di perdono da parte del padre di uno dei due accusati. Per quanto riguarda la cronaca, la notizia anche di questo bus in un burrone, secondo le ultime informazioni, i feriti sarebbero in Friuli Venezia Giulia, vicino Udine, l'autista e 5 bambini, 2 dei quali sono stati trasportati in ospedale con un elicottero. Per il fisco, c'è una notizia che riguarda il fisco, si è sparsa l'esiziale notizia, diciamo così, il conseguente panico, quindi di una possibile tassa sui condizionatori. Vediamo se ha da darci buone notizie Chicco Padula, vice direttore del Sole 24 Ore. Ciao Chicco. Buonasera, ciao. È vero, so che tu hai subito imboscato in cantina il tuo condizionatore. No, io intanto mi sono attrezzato con un ventilatore a pale. Ecco, che è anche più ecologico, no? Ecco, più ecologico e non c'è nessuna tassa. E non fa venire mal di gola. E non fa venire mal di gola. Beh, non è proprio una tassa, devo dire, non è proprio una tassa. Però i condizionatori, però quelli grandi, di potenza superiore a 12 kW, mi sono informato, quelli che stanno, diciamo, nelle case in genere sono intorno a un kilowatt e mezzo, quindi 12 kilowatt è grande, un impianto grande. Allora, questi impianti qui grandi, come già avviene per le caldaie, sono soggetti da qualche mese a un controllo, a un obbligo di controllo, e quindi devono avere, così come già avviene per le caldaie, un libretto. Questo libretto va fatto compilare da un manutentore, da un installatore professionale che attesta che tutto funziona bene, che i consumi sono adeguati, che non c'è dispersione di energia. E che naturalmente è da pagare poi questo tecnico. E che è da pagare, chiaro, certo. E la tariffa varia tra i 100 e i 200 euro, e questa è la tassa. E questa, ecco, è la tassa. Questa, senti, è la tassa. Detto tra noi, diciamolo piano piano, è una questione di sicurezza nostra, quel condizionatore, cioè, per dare... tira fuori soldi? No, beh, diciamo, è l'adeguamento dell'Italia a una direttiva dell'Unione Europea, esattamente come era avvenuto per gli impianti di riscaldamento. Come al solito qua, sai, possiamo dire di tutto, dire ancora una volta l'Europa ci impone di pagare le tasse anche sull'aria, oppure possiamo prendere atto del fatto che è meglio avere in casa un impianto di riscaldamento e un impianto di climatizzazione che funziona bene e che aiuta in qualche modo a rispettare maggiormente l'ambiente. Sono due, insomma, modi di vedere questa cosa. Oppure a voi si fa come me, si mette il ventilatore. Ecco, io preferisco il ventilatore. Grazie Chicco Padula. Grazie a voi, ciao. Ciao Chicco. Poi in chiusura volevo darvi velocissimamente questa notizia, la scoperta di ricercatori dell'Università La Sapienza e della Fondazione Santa Lucia di Roma di un'area del cervello che serve per ballare in coppia senza pestarsi i piedi. Voi pensate, anche volevo darvi questa notizia perché voi pensate i ricercatori a volte per anni in cosa sono impegnati. Forse Filippo Reggi alla parte tecnica non ce l'ha questa parte, mi fa sapere, pesta i piedi evidentemente in modo cospicuo a sua moglie. Adesso ci lasciamo brevemente, poi riprendiamo con temi molto seri, ritorniamo sulla vicenda che ha coinvolto Crocetta. Vedevo i vostri messaggi a proposito della domanda che avevo fatto, se è vero secondo questo sondaggio di una società di ricerca americana che gli italiani sono tra i più pessimisti in Europa sulla loro economia, 9 su 10 dicono che va male. C'è per esempio Nicola che dice: buonasera, sono un piccolo imprenditore, sì c'è un leggerissimo miglioramento ma certo non è sufficiente per parlare di ripresa. Poi Nicoletta: come si può essere ottimisti a proposito della situazione italiana quando i giovani espatriano e non oso pensare da chi saranno sostituiti? 349-238-6666 per i messaggi oppure la pagina Facebook di Effetto Notte. Aggiornamenti per chi viaggia. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Eccoci insieme ancora tra la pagina Facebook e il numero 349-238-6666 per i vostri messaggi. Matteo scrive: sì, c'è una lentissima ripresa, tagliando le tasse e la spesa corrente ripartiamo. Quindi tra gli ottimisti tutto sommato Matteo. Adesso però vi ricordo le notizie principali, se non avete sentito puntualmente alle 21 accendendo su Effetto Notte, e poi passiamo al primo tema col primo ospite. Avete sentito di questa tragedia dell'immigrazione, si è avuta notizia solo oggi, ma il gommone è annegato ieri davanti alle coste libiche, sarebbero morte decine di persone, lo hanno riferito i superstiti. Poi un nuovo divorzio in politica, in Forza Italia, Verdini che dice addio a Berlusconi, dice numeri per un gruppo tutto mio. Ilva Riva a giudizio per inquinamento, Vendola anche lui rinviato a giudizio il processo a ottobre per concussione, il processo sarà per 47 persone. E poi la Terra che avrebbe un pianeta gemello, l'annuncio è venuto dalla NASA, oggi si chiama Kepler 452b, poi sentiremo se è davvero abitabile. Per quanto riguarda il rapimento degli italiani, il sottosegretario Minniti oggi ha detto che sono escluse possibilità di scambio con gli scafisti, in realtà dietro c'è un motivo di soldi, una richiesta di soldi. Poi in Grecia Tsipras che incassa un nuovo sì al piano, anche di questo ci occuperemo. E per quanto riguarda l'occupazione, Telecom annuncia 1700 esuberi. Oggi invece per quanto riguarda la vicenda Crocetta, il presidente della regione Sicilia all'ARS, l'assemblea siciliana, ha detto non mi dimetto né voto anticipato, e Renzi dice lui e Marino governino o vanno a casa. Quindi ripartiamo dalla vicenda delle presunte intercettazioni che riguardano Crocetta, lo facciamo insieme a Gigi Riva, caporedattore centrale dell'Espresso. Buonasera Gigi. Buonasera a te, buonasera agli ascoltatori. Un nome molto evocativo il tuo, però avverto subito gli appassionati di calcio che non hanno niente a che fare col Cagliari, con la dirigenza calcistica, eccetera. Sono mancino, ma ero scarso a calcio. Sono mancino come lui, come il grande. Sarei bravo in altre cose, almeno a questo punto in comune. Senti Gigi, invece adesso parliamo di questa vicenda e se mi permetti la riassumo, perché non do mai per scontato che tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici sempre sentano le cose, ogni sera se ne aggiungono centinaia e centinaia. Quindi faccio una breve sintesi. Sì. E dico appunto che questa vicenda sulle presunte intercettazioni tra il governatore della Sicilia Crocetta e il primario suo amico di Crocetta Tutino continua naturalmente ad andare avanti, perché prima c'è stata la bufera dalla quale è stato travolto Rosario Crocetta dopo appunto le rivelazioni dell'Espresso che parlava di queste presunte intercettazioni in cui Tutino, cioè che il medico che poi ha gli arresti per truffa, falso e peculato, nominando l'assessore alla sanità in questa telefonata Lucia Borsellino al telefono con Crocetta, diceva va fatta fuori come suo padre, cioè come il giudice Borsellino, e Crocetta dall'altra parte del telefono non risponde, sta zitto, non replica in nessun modo, e questa, diciamo, è l'aspetto della rilevanza, della gravità di questa intercettazione, poi con conseguenti attacchi, biasimi nei confronti di Crocetta, arrivati da più parti, in particolare anche dal PD, che aveva chiesto subito le dimissioni. Allora Crocetta che fa? Si autosospende, ma arriva a un certo punto la smentita del procuratore di Palermo circa l'esistenza di queste intercettazioni. L'Espresso però ribadisce che ci sono, ma due giorni fa arriva anche la smentita del procuratore di Caltanissetta, che dice no, queste intercettazioni non sono agli atti, non ci sono. Allora l'avvocato di Crocetta, che era stato anche qui effetto notte, chiede un risarcimento danni di 10 milioni di euro all'Espresso. Crocetta a quel punto ritorna a svolgere il suo ruolo di presidente della regione Sicilia e si sfoga. Sentiamo allora alcuni passaggi quando è stato qui a effetto notte due sere fa. Soltanto spazzatura. E quella stessa spazzatura la deve mostrare, la deve portare alla Procura della Repubblica, perché questo è un attentato a un organo costituzionale dello Stato. Non ci si può trincerare dopo il titolo il fatto che il giornalista può segretare la propria fonte di informazione, e lo deve agli italiani. Ecco, quindi questo è l'aspetto in cui dice la devono tirare fuori questa intercettazione, tra poco ci ritorneremo, però intanto assicura, anche sempre qui effetto notte, che non si dimette. Non mi dimetto perché ho un dovere di fronte al popolo italiano. Voglio capire se questa è una democrazia compiuta che rispetta, che dà più fiducia alle parole che vengono da un tribunale e dai magistrati, oppure agli eversori che vogliono fare crollare la democrazia. Questa è la mia sfida, e su questo io credo che ormai nel nostro paese ci si debba mobilitare tutti per dire basta a potentati che possono decidere di far cadere governi, che possono distruggere uomini, che possono fare mandare in galera persone che poi si rivelano innocenti. E poi ha detto anche bisogna insorgere contro una bufala che magari ha preso così involontariamente l'Espresso, ma che poi non ha voluto smentire per salvare la reputazione. Sentiamo. In un paese democratico chi decide se una persona è responsabile o colpevole è soltanto il giudizio dei magistrati. Non possono essere le accuse gratuite inventate di chiunque, e non può essere sicuramente un giornale che magari non vuole ammettere una bufala soltanto per mantenere la reputazione a dettare una linea politica. Questo sarebbe veramente grave. I fatti parlano. Se questo viene fatto nei confronti di un presidente di regione, figurarsi cosa può capitare a qualsiasi normale cittadino. È venuto veramente il momento persino di insorgere contro queste schifezze. Ecco, ancora un minuto di pazienza, anzi meno, perché faccio sentire anche una parte molto piccola di cosa ha detto Crocetta poi oggi all'Assemblea siciliana, al Parlamento siciliano praticamente, su questa vicenda. Non ci sto al massacro della Sicilia e del popolo siciliano, non ci sto alla campagna denigratoria archettata contro di me, non ci sto a chinare la testa di fronte ai potenti di sempre. Sono un uomo libero, lo sono sempre stato. Forse pago qualche mia incenità e vi chiedo persino perdono per questo. Ora, Gigi Riva, quindi quella che definisce spazzatura inesistente, Crocetta, dov'è? C'è? Allora, hai messo molta carne al fuoco e vorrei procedere con ordine. Certo. Partiamo dall'intercettazione. Noi abbiamo alcune certezze. Uno, che i nostri due cronisti, hanno sentito questa intercettazione per ben due volte e hanno verificato questa intercettazione con diverse fonti investigative, non solo con la persona che gliel'ha fatta ascoltare. Quindi abbiamo fatto un lavoro giornalistico di incrocio che capiamo benissimo ha una debolezza, perché all'epoca di internet e dell'immediatezza dell'informazione il fatto di non poterla produrre come non possiamo produrla, e lo confermo, salvo il fatto che abbiamo fatto il lavoro giornalistico che si fa. Io capisco che i tempi adesso sono diversi, ma mi ricordo quando facevo in passato il cronista di giudiziaria che alcune conferme incrociate e soprattutto l'audizione di una intercettazione di un certo livello facevano in modo di immaginare, di supporre che le prove, soprattutto perché arrivano da almeno tre fonti autorevoli, fossero sufficienti per poter dire questa cosa. Faccio notare una cosa in più però, perché nel momento in cui si dice presunte intercettazioni bisogna distinguere tra questa che tutti chiamano presunta e le altre che sono sicuramente vere e che danno in web, perché sono depositate agli atti contrariamente a questa. Ma di quale stai parlando, Gigi? Sto parlando di tutte le intercettazioni in cui il dottor Tutino e l'entourage che sta a fare da cerchio magico al presidente Crocetta parlano comunque dell'ex assessore Borsellino grosso modo negli stessi termini. Dicono che il presidente dovrebbe adoperarsi perché si dimetta, che vogliono provocarle dei problemi, via dicendo. Le intercettazioni che abbiamo visto essere state pubblicate nei giorni scorsi pressoché da tutti i giornali. Dunque, al di là della nostra intercettazione, che noi ribadiamo essere convinti di aver fatto un lavoro giornalistico buono, e oltretutto la querela dell'avvocato di Crocetta per conto di Crocetta ci darà modo, con l'inchiesta giudiziaria aperta, di poter accedere a tutte le fonti di informazioni, di prove, di poter produrre anche le nostre prove, naturalmente indirette, perché ripeto, ma perché, Gigi, non possiamo esibirla. Perché non potete esibirla? Questa è la domanda. Non possiamo esibirla perché non ce l'abbiamo, l'abbiamo sentita ma non ce l'abbiamo. È un bel problema. Per chiunque faccia questo mestiere, è chiaro che ci sono alcune volte che le fonti ti fanno sentire un'intercettazione ma non te la consegnano direttamente. Come chiunque faccia il lavoro di giornalista sa benissimo, e siccome in un'epoca di informatizzazione globale molti, anche lettori avvertiti, sanno benissimo quali sono i meccanismi in cui si accede a questo, anche se Gigi funziona l'informazione. Anche se il problema è questo, no? Lui dice un uomo che viene massacrato e cita anche, dice, può essere mafia, massoneria dietro a questo, qualcuno che mi vuol far fuori. È chiaro che finché l'opinione pubblica sì, finché non sente effettivamente queste cose, quando le potrà mai sentire? Cioè, finché non le sente è chiaro che la situazione rimane tutta, diciamo, ed è questo il motivo per cui noi salutiamo questa inchiesta giudiziaria che partirà come un momento di chiarimento della verità. Dopodiché, se posso aggiungere, tutte queste manovre che il presidente Crocetta evoca, la massoneria, i poteri forti eccetera eccetera, sono evidentemente lontani da tutti noi e non ci possono che far sorridere. Noi abbiamo semplicemente fatto un lavoro giornalistico sul quale sì, si sta facendo anche molta dietrologia, e nel momento in cui sento il presidente Crocetta dire chissà perché è uscita questa intercettazione alla vigilia della commemorazione di Falcone Borsellino, è uscita in quella data semplicemente perché con le dimissioni dell'assessore Borsellino, che datano da inizio luglio, si è rimesso in moto un meccanismo, e con le parole durissime che l'assessore Borsellino ha usato nei confronti di Crocetta, da cui si è sentita tradita, e nei confronti dell'ambito in cui si è trovata a lavorare per un anno e mezzo nella sanità palermitana, che ricordo a tutti gli italiani ha 8 miliardi di deficit in tutto questo. E in quel momento è riemersa all'attenzione delle cronache l'inchiesta giudiziaria che ha portato all'arresto di Tutino e di alcuni suoi sodali vicinissimi al presidente Crocetta, ecco che è riesploso l'interesse attorno a questa inchiesta, e noi abbiamo avuto bisogno del tempo necessario, oltretutto essendo un settimanale, quindi uscendo una volta alla settimana, di fare le verifiche necessarie per poter avere la ragionevole certezza che quello che scrivevamo fosse vero. Quindi tutta la dietrologia che sta dietro il nostro, che viene chiamato finto scoop eccetera, mi sembra che faccia francamente sorridere, proprio per tutti i motivi che ti ho citato. Sì, anche se appunto rimane così sospesa la cosa, perché senti, ma sarà possibile sentirla prima o poi? È andata distrutta, l'hanno distrutta, si potrà risentire? In modo chiaro. Guarda, è una domanda a cui evidentemente non so rispondere. Io ho già detto prima che capisco che c'è una debolezza nella nostra posizione che riguarda esattamente questo. Noi potremmo esibire nel momento in cui ci verrà richiesto, i punti di contatto con queste autorità inquirenti, i momenti in cui siamo entrati in contatto con loro, degli sms che sono stati scambiati tra i nostri cronisti e queste diverse, e ribadisco diverse, autorità inquirenti, e sarà fatta luce appunto su, sarà possibile chiamare a testimoniare queste persone e forse finalmente in quell'occasione capire anche dov'è finita quella intercettazione che evidentemente, e ha ragione il procuratore Lovoi, agli atti della Procura di Palermo non esiste. Faccio anche notare che si è mosso anche il guardasigilli, oltre che il procuratore generale della Repubblica a Roma, per chiedere che si faccia luce sul destino di questa eventuale, così come loro definiscono, intercettazione, per capire se ci sono stati dei profili, diciamo così, rilevanti o penalmente rilevanti commessi da qualche ufficio dello Stato. Cioè da queste autorità inquirenti, no? Perché l'avrebbero passata proprio a voi? Perché l'avrebbero passata proprio a voi? Scusa se la domanda è ingenua. Beh, evidentemente perché i nostri cronisti avevano una consuetudine con le fonti che ti sto citando, anche perché l'inchiesta sulla sanità siciliana è cominciata nel 2013, noi abbiamo dei cronisti che lavorano a Palermo per noi, che avevano una consuetudine evidentemente con le fonti investigative d'indagine, che avendo stabilito queste consuetudini sono arrivati ad avere una prova. Io non credo a nessun tipo di dietrologia che ci stia dietro a questo, l'hanno data a noi per darci la polpetta avvelenata, no? Semplicemente come funziona nel lavoro giornalistico, succede che ci sono delle persone che sono più hanno degli accessi alle fonti per una consuetudine che si crea, per una fiducia che si crea nel corso degli anni, e l'hanno data a noi esattamente per questo motivo. Gigi Riva, ma se l'avvocato di Crocetta dice allora o la tirate fuori o vi chiediamo i danni da 10 milioni di euro, se voi a quel punto non la tirate fuori, come procede la vicenda? Ma la vicenda può procedere solo a questo punto, nel modo che l'avvocato di Crocetta e Crocetta stesso ci hanno querelato, noi con questa richiesta di risarcimento danni. La Procura di Palermo ha aperto un'inchiesta che mi risulta per ora essere senza indagati e senza ipotesi di reato possibili, ma comunque c'è un'inchiesta aperta. La Procura Generale dello Stato ha fatto altrettanto, quindi proseguirà con un'inchiesta grazie alla quale noi avremo la possibilità di chiedere l'accesso a tutti gli altri, l'audizione di tutte le persone coinvolte in questa vicenda, e finalmente, credo con tempi che ahimè saranno abbastanza lunghi, poter provare la correttezza del nostro lavoro. Ti faccio quest'ultima domanda, Gigi Riva, perché è stata tirata fuori alla fine questa intercettazione, se ci fosse, se esistesse veramente, quando in realtà non è penalmente rilevante per Crocetta, e può anche sempre davvero dire se c'è questa intercettazione, io non ho sentito, non ho risposto perché non ho sentito, cioè penalmente non è rilevante nei suoi confronti, non è che lui ha tentato di uccidere. Naturalmente non è penalmente rilevante, anche se ha una rilevanza, diciamo così, morale. Certo, dal punto di vista morale e politico. Evidentemente, basta vedere tutto il bailam che si è scatenato attorno a questa intercettazione. L'unica cosa che vorrei sottolineare in tutto questo è che l'articolo che noi abbiamo pubblicato in qualche modo ha fatto riemergere all'attenzione nazionale, e anche a causa di questa frase ahimè infelice e questo silenzio altrettanto infelice, ha fatto riemergere un caso che altrimenti sarebbe stato confinato nell'isola in Sicilia, e non sarebbe emerso tutto quello che è emerso nel corso di questi giorni, a testimoniare quanto fosse rilevante tutto questo. Cioè, le dimissioni di Lucia Borsellino erano passate inosservate. Voglio anche sottolineare che nella regione Sicilia ci sono stati 37 assessori che si sono dimessi in 33 mesi. Credo che anche qui, da un punto di vista naturalmente politico, che non ha nulla a vedere con la vicenda delle intercettazioni, credo che ponga un problema. Ma sta di fatto che le dimissioni della Borsellino, che denunciava questo clima di intimidazione e di ostilità nei suoi confronti fatto dalle persone protagoniste di questa inchiesta, lei chiama in causa Tutino, chiama in causa Crocetta, eccetera, eccetera, sarebbero passate inosservate se non ci fosse stato questo articolo che ha fatto emergere, come ripeto, altre intercettazioni, grosso modo dello stesso tenore, che sono depositate agli atti e su cui non si dice nulla. Voglio dire che l'humus in cui nasce questa telefonata è questo, è quello che è sotto gli occhi di tutti in questi giorni. Gigi Riva, io ti devo salutare e ti ringrazio, dico solo che, poi devo proprio salutarti, che Antonello Cracolici, presidente del gruppo PD all'Assemblea regionale siciliana, oggi ha detto Crocetta è stato infangato e la patacca pubblicata da un settimanale ha infangato tutta la Sicilia. Comunque attendiamo con ansia di sentire prima o poi questa intercettazione. Grazie Gigi Riva intanto. Grazie a te e agli ascoltatori. Posso solo rispondere a Cracolici che forse i siciliani si sentono più infangati da un governo regionale che appunto non governa, come è evidente, per oggettive difficoltà, è un buco che sta travolgendo la Sicilia e tutti i siciliani assai più dell'intercettazione dell'Espresso. Grazie Gigi Riva, ciao, buona continuazione. Noi siamo in ritardissimo, dobbiamo mandare assolutamente questa pausa. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Roberta Giordano sempre con voi, vedo arrivare molti vostri messaggi tra la pagina Facebook di Effetto Notte, il 349-238-6666 sull'argomento Crocetta di cui abbiamo appena parlato col caporedattore centrale dell'Espresso e anche sulla crisi, il vostro pessimismo ottimismo in base a quel sondaggio della società americana. Però adesso dobbiamo correre verso un altro tema, intanto vi ricordo velocemente le notizie più importanti di oggi. Una tragedia dell'immigrazione con decine di migranti che sarebbero annegati in seguito a un naufragio avvenuto ieri mattina di fronte alle coste libiche, lo hanno riferito i superstiti. Spazio, l'annuncio della NASA ha scoperto un'altra terra con un proprio sole in una zona abitabile del cosmo, ne parleremo più tardi. Ilva, al via ottobre il processo per il disastro ambientale, ne parleremo tra pochi istanti. Poi gli italiani rapiti in Libia, non ci sono gli scafisti dietro il sequestro ma la richiesta di soldi, così ha detto il sottosegretario con delega ai servizi Minniti. Divorzio in Forza Italia, Verdini lascia Berlusconi, dice addio, me ne vado e potrà creare un nuovo gruppo, dice ai numeri. La bufera politica in Sicilia, Crocetta non molla e dice contro di me poteri occulti, avete sentito poco fa appunto il caporedattore centrale dell'Espresso. Occupazione, Telecom Italia annuncia 1700 esuberi e domani, sempre per problemi di occupazione, scioperano i piloti all'Italia, fermi il 15% dei voli. Invece adesso della lunga vicenda dell'Ilva, l'acciaieria della discordia, la più grande d'Europa, quella che doveva essere, diciamo, il simbolo di un boom economico che è diventata poi col tempo, diciamo, connotata da questo dualismo tra la tutela dell'ambiente da una parte e diciamo anche della salute delle persone e la salvaguardia del posto di lavoro dall'altro. Un grosso conflitto che adesso converge in un processo che ci sarà a ottobre. Lo chiediamo a Domenico Palmiotti, corrispondente dalla Puglia. Ciao Domenico. Buonasera Roberta, buonasera agli ascoltatori. Quindi c'è questo rinvio a giudizio per 44 persone, tra cui anche Nichi Vendola, ex governatore. Sì, certo. Diciamo che oggi la giornata è stata molto intensa, quasi come quella dell'estate di 3 anni fa. Eravamo il 26 luglio quando scattarono i primi sequestri, i primi arresti, da cui poi è nato tutto. Oggi il GUP ha chiuso l'udienza preliminare e ha rinviato a giudizio 44 persone e 3 società. Tra le 44 persone rinviate a giudizio c'è appunto Nichi Vendola, ex governatore della Regione Puglia, c'è il sindaco di Taranto, Ezio Stefano, ci sono i proprietari dell'Ilva, Fabio e Nicola Riva, ci sono due ex direttori dello stabilimento, c'è l'ex presidente Bruno Ferrante. Sono diversi i capi di imputazione, per il capo di imputazione maggiore è quello che riguarda i due Riva e gli altri imputati, associazione a delinquere finalizzata al disastro ambientale, un reato grave per il quale poi il processo sarà celebrato a partire dal 20 ottobre in corte d'assise. Ma oggi il GUP si è anche pronunciato su 5 richieste di condanna, perché ci sono stati degli imputati che nel processo hanno chiesto di patteggiare e c'è stata appunto ci sono state delle assoluzioni, 3 assoluzioni, fra cui quella dell'ex assessore regionale della Giunta Vendola all'ambiente Lorenzo Di Castro, che tra l'altro è un ex PM, e poi ci sono state 2 condanne, fra cui quella di un sacerdote all'epoca dei fatti segretario dell'arcivescovo di Taranto, dell'allora arcivescovo di Taranto, Benigno Papa. Quindi da ottobre si capirà come procede questa vicenda. Questo processo comincia, sarà ovviamente un processo lungo, teniamo conto che già l'udienza preliminare è durata oltre un anno, è stata un'udienza ricca di colpi di scena, perché a giugno dell'anno scorso, quando partì l'udienza preliminare, gli avvocati di Live e di alcuni imputati cercarono di spostare il processo in un'altra città, dicendo che a Taranto non c'erano le condizioni per un giudizio sereno ed equilibrato. Poi la Cassazione si è pronunciata ad ottobre scorso e ha detto che il processo va mantenuto a Taranto, e quindi a Taranto comincerà, salvo colpi di scena, salvo altre vicende che potranno accadere. Però diciamo che in questo momento poi ci sono altri nodi produttivi e industriali che riguardano l'azienda, quindi la vicenda giudiziaria si incammina sul suo percorso, però la vicenda Ilva complessivamente non è chiusa. Non è chiusa qua. Intanto grazie Domenico Palmiotti dalla Puglia. Ciao Domenico. Grazie a te. Ciao. Viabilità. Effetto notte. Le notizie in 60 minuti. E anche in pochi secondi le più importanti con questa nuova tragedia dell'immigrazione. Si è saputo oggi, ma il naufragio è avvenuto ieri, sarebbero morte decine di persone di fronte alle coste libiche, lo hanno riferito i superstiti. E poi avete sentito anche di questo divorzio dentro Forza Italia, Verdini lascia Berlusconi, addio dice i numeri per formare un gruppo tutto mio. Dell'Ilva abbiamo appena parlato, con il rinvio a giudizio per 47 persone per disastro ambientale, e poi la Terra, secondo un annuncio oggi della NASA, avrebbe un pianeta gemello. Europa 24. Dell'Europa parliamo, della Grecia. Ieri ci avevamo lasciato con questo voto che era lì sospeso in Parlamento per il secondo pacchetto di riforme. Il Parlamento ha votato sì, e persino l'ex ministro delle finanze Varoufakis, che aveva mollato Tsipras a un certo punto dopo il loro cammino trionfale alla guida della Grecia e poi con tutte queste difficoltà che invece poi sono seguite per le questioni economiche. Ne parliamo con Sergio Nava. La notizia è proprio, forse a parte il sì che poteva essere scontato, ma c'è stato diciamo anche l'approvazione del ministro, ex ministro Varoufakis. Sergio. Sì, ma ora bisogna guardare decisamente avanti, anche perché passato questo pacchetto ce n'è un altro che sarà appunto molto più delicato, perché si parlerà di baby pensioni e di agevolazioni fiscali. Perché ognuno di questi pacchetti che si vota di mercoledì, lo scorso mercoledì, ieri e il prossimo, sono delle tranche per far digerire la pillola un po' per volta, insomma. Sì, però Tsipras in questo secondo ha cercato di lasciare un po' ai margini questi temi appunto relativi alle pensioni e alle agevolazioni fiscali agli agricoltori, e che verranno comunque tra poco al pettine. Però passo dopo passo si cerca di mettere in moto la grande macchina del piano di salvataggio, questo nuovo piano di salvataggio di fino a 86 miliardi di euro. Domani a quanto pare ci saranno ad Atene i rappresentanti di Banca Centrale Europea, FMI e Commissione Europea, torna insomma la Troica ad Atene, e si cercherà di cominciare a intavolare il negoziato vero e proprio, mentre Atene continua ad approvare i pacchetti. Ci sono anche, bisogna dire, allora, innanzitutto la Commissione Europea si è fatta un po' portavoce della Troica, definendo generalmente soddisfacente il passo legislativo con cui Atene sta approvando. Però l'FMI ha detto bisogna vedere anche l'implementazione, il finanziamento eccetera di queste misure, e soprattutto l'FMI è tornato a dire: prima ci sediamo al tavolo, chiariamoci su cosa vogliamo fare di questo debito, lo si vuole ristrutturare il debito greco, lo vuole alleggerire il Fondo Monetario da un po', no? Così come anche la Banca Centrale Europea aveva detto qualche giorno che sia un taglio, che sia un riscadenziamento, che sia un'ulteriore dilazione, un abbassamento dei tassi di interesse. Però il Fondo Monetario dice una cosa ovvia: è troppo alto, sfiora, si avvia verso il 200% del PIL, secondo le non peggiori previsioni. Non si riprenderà mai la Grecia se qualcosa... L'FMI dice una cosa assolutamente sensata, bisogna in qualche modo ridurre questo peso. Anche perché un centro studi economico greco oggi ha detto che la Grecia, anche a causa di quello che è successo a giugno e della crisi con l'Europa, tornerà in recessione. E se andiamo a prendere i dati molto interessanti, i primi sei mesi dell'anno, vediamo che sì, c'è stato un calo dell'11% delle uscite di spese pubbliche e spese statali, però allo stesso tempo c'è stato anche un forte calo di ingressi fiscali. Si parla addirittura di entrate fiscali minori per 2,3 miliardi e pagamenti statali scesi dell'11%. Quindi la Grecia è riuscita a tenere i conti pubblici più o meno in ordine, l'avanzo primario addirittura un po' sopra quello che si era detto, che si era previsto, però a prezzo anche di un'economia ormai nei fatti paralizzata. Quindi bisogna veramente rimettere in moto il tutto prima che la barca rischi di affondare. Grazie Sergio Nava. Ciao Sergio. Ciao. Europa 24. In collaborazione con Euronet Plus. E bisognava creare un po' questa atmosfera, perché non so se si parli di marziani o di cosa, insomma c'è stato questo annuncio della NASA oggi con una conferenza stampa che ha fatto precedere questo annuncio, la comunicazione, da un entusiastico: è la notizia che avete sognato da migliaia di anni. Io non so voi quanto siate vissuti finora, insomma avete sognato da migliaia di anni, dice la NASA, è stato scoperto nello spazio un altro pianeta Terra, un pianeta gemello del nostro pianeta, si chiama Kepler 452b, si trova a 1400 anni luce. Allora io coinvolgo il professor Giovanni Bignani, presidente dell'Istituto Nazionale di Astrofisica, che ci risponde niente poco di meno che dal Sudafrica. Professore, buonasera. Buonasera, eccomi qua, mi ha catturato proprio appena sceso. Professore, allora, giusto in tempo. Senta, io prima di tutto le faccio questa domanda: possiamo preparare le valigie? No, niente panico. No, era una speranza. Era una speranza. Vedo che diversi ascoltatori dicono: ma se esiste veramente un altro pianeta, forse possiamo. Sì. Andiamo a trovare ET, queste cose qua. No, purtroppo è un bellissimo risultato. È certamente finora l'oggetto più vicino che abbiamo, che abbiamo rispetto alla Terra, ma non ci siamo ancora. Non c'è nessuna certezza. Comunque, i fatti sono che ha una massa una volta e mezzo la Terra, è roccioso, quindi bello solido, e chi se ci vive ce ne dei muscolacci, perché evidentemente con la gravità una volta e mezzo, forse c'è l'acqua e la distanza giusta dalla stella giusta, insomma ci fa molto ben sperare. Ci fa ben sperare nel senso che avendo un jet personale qualcuno, magari un razzo un po' più potente, prima o poi si può raggiungere, professore? Questo... Certo, oddio, sono 1400 anni luce, è un bel viaggetto, insomma. Ci dà il senso di questa distanza? Quanti sono 1400 anni luce? Cioè, che esempio possiamo fare? La distanza che la luce percorre andando alla velocità della luce per 1400 anni, e un altro modo di metterla potrebbe essere che tra noi e il Sole ci sono 8 anni luce. Per Plutone, che siamo appena passati, cos'erano 4 ore luce. Diciamo che non lo raggiungeremo facilmente, questo professore, ci sta così insomma un po' sconfortando. Di sicuro. Senta, ma ci potrà essere, se anche noi non possiamo prendere diciamo il primo bus di linea per andare, ma ci potrebbe essere vita anche se noi siamo qua e qualcuno sarà là, oppure... Che dice? C'è vita sul pianeta qualcosa sabato sera, no? Ecco. Un po' di disco dance. No. Che dice? Ecco, sì, naturalmente non si può escludere, non abbiamo, certamente è diverso da pianeti che sono dichiaratamente non abitabili, è alla distanza giusta dalla stella giusta, vuol dire che per 10% in più presso poco di energia di quanto il Sole mandi sulla Terra, fa più caldo che da noi. Vabbè, quindi diciamo se consideriamo il caldo di questi giorni, penso che molti si scoraggerebbero nel fare le valigie, anche se fosse meno distante diciamo questo pianeta. Professore, quindi da ora in poi che ce ne facciamo di questa scoperta? Beh, siamo un pochettino meno ignoranti, posso metterla così da scienziato, che non è banale. E andiamo avanti, ne abbiamo, in 20 anni ne abbiamo già accumulati 2000 di questi pianeti. E quindi questo è più bello di tutti finora, ma nella galassia ce ne sono molti miliardi, e quindi prima o poi troviamo uno ancora meglio. Siamo stati molto bravi, devo dire, come astronomi e come astronomi italiani, con qualche orgoglio faccio notare che gli italiani in questa specialità di trovare i pianeti al di fuori del sistema solare sono all'avanguardia. Sono degli specialisti. Professor Bignami, io la ringrazio moltissimo, la lascio al suo Sudafrica in questo momento, vediamo il prossimo se sarà magari un pochino più accessibile allora come pianeta. Grazie professore. Infatti, grazie a lei, buonasera. Grazie, buona serata. Intanto vedo i vostri messaggi che arrivano alla pagina Facebook di Effetto Notte al 349-238-6666 a proposito dell'ottimismo o pessimismo sull'economia italiana, visto che c'era, vi citavo questo sondaggio di una società americana. Francesco da Udine dice: non usciremo dalla crisi, mentre Franco dice: con questo governo non si può essere pessimisti, Renzi ha risolto il problema degli esodati, ha saldato il debito della pubblica amministrazione, con i Jobs Act non ci sono più disoccupati. Dice: se non si è capito sono molto ironico. Mentre sulla questione Crocetta, Gilles sulla pagina Facebook di Effetto Notte dice: non ho nessuna simpatia per Crocetta, ma è evidente che il redattore dell'Espresso si sta arrampicando sugli specchi. Mentre l'ascoltatore Lende dice: ma Crocetta e altri prima di lui, nonostante ha portato la Sicilia in bancarotta, chiede 10 milioni di danni adesso. Insomma, molte le vostre posizioni, poi me le leggerò, per conto mio leggetele anche voi quelle che potete sulla pagina Facebook di Effetto Notte. Ai messaggi continuiamo domani, ci risentiamo alle 22.